sin dove mai pensi veder che giunga d'un figlio disperato il furor cieco? Penso che si contenga nel prende loro ciò. D'amor la forza non ha limiti, o padre, ma nel negarmi d'orisbe la mia vita del mio furor fosti cagion tu stesso. Spera, chi sa, Leorco deve scegliere la sposa. Se mi serba il cielo l'adorata Dorisbe, il mio contento potrà far che mi scordi ogni tormento. Thank you. anch'io. Dale arco che vuoi. Qual vista, oh Dio? Quindi e sedete, qui l'arco. Un incontro soffrire, forse l'alma molestò. Che sarà, che dirò? Qual punto è questo? Da che Cupido impera, forse prodor non seppe stravaganze d'amor simili a queste. Viver così mai sempre un contiguo morir. Per risolvere c'era l'alcuno di voi. Su via, miei cari, moderate l'affetto, superate il cordoglio. Io non posso, io non devo, ed io non voglio. Forse nati che siete, continuate a penare. Se questo amor seguite l'intrapresa follia. Se il vostro cuore, figli, non è sì forte quanto al lupo si chiede, opprì la sorte. Ma come? Udite, io stesso ti dovrei svederci da scritti coi nomi distinti. Eccoli, in questa urna son chiusi. Or tu le arco, in essa poni la mar pietosa. Tranne sol una, e quella sia tua sposa. Già nel mio affetto arbitro rende il ciel. Torisbe, Ercilda, oggi una di voi le arco spiacerà. Ernesto, il regno, il popolo, il dover, tutto ma stringe al momento fatale. In testimonio chiama i numi del vero. Ecco la mano stendo già. Ma dov'è l'urna? Oddio, non la discerno più. Trema la terra, vacilla il piede, s'abbagliano le luci. Non ho cor, non ho voce. Che vorresti le arco? Oddio, la morte! Or su dunque m'udite, sarà l'amante Ernesto ministro del destino. Già tracco. Afferma, se t'aggrada un periglio vietar, lascia ch'io vada. Non mi chiami, Thank you. Oh, Sospendete ogni pompa, il popol non soffre contro le patrie leggi. Un ignoto stranier mirar sul soglio giunse onor da Lubecca di quel senato un nunzio. Ei ci assicura che Gustavo ancor vive, che non è da noi lungi. No, non presto il figlio tuo vive cotesto de monarchi svedesi ultimo germe, giusta e bella richiesta del popolo fede, sarà contento Learco c'è del trono. Regni dunque Gustavo, e quello io sono. In questo foglio chiuse l'arcano, aprilo Ernesto. Sì, sì, questo è Gustavo, il regio in pronto, i caratteri presti, tutto, tutto conosco. Ma che bastante prova sarebbe il tuo valor, signore, perché il vincerti è stinto? Acciò il tiranno un nemico di meno aver credesse, al mio liberatore giurai che solo allor m'avrei svelato che avessi di mia valle impio svenato. Errò la sorte nel destinar, signore, d'orisme alle tue nozze, tutti che lo è che lo vide e tua germana. Respiro. E come teco? Tutto saprai. Ora basta che io ti dica, ecco i tuoi piedi l'infelice. Sì, sì, sarai mia sposa, Clotilde, intendo adesso qual era il nostro amore. Tutto non perdo, sieri a questo un germano. Vuol la mia fede sperar qualche mercè. Segui ad amarmi, grati e superni dei, grati e di tante fortunate vicende. Chi mai vide servar con tanto zelo ad un gran re la sua corona e il cielo?